avuto una stupida serenata e mi hai respinto mille volte, ma sei tornata. Tu che dici se non sono con te faccio il pazzo e bevo troppo. Forse il bello è che quando sei con me ci conciamo pure il doppio. Me ne approfitto, quante volte me l'hai perdonata. Continua a dirlo, troverai un'altra fidanzata. Ma io voglio te, solamente te, che sei così trasparente da restarmi accanto e avermi a fianco per darmi forza sempre. La mia migliore amica, la mia certezza, sei l'unica folle che ancora mi ama. Puoi sposarmi. Non sai che dire, ti ho strappato tutte le parole. Mi fai impazzire quando è solo gli occhiali da sole. E mi hai cercato dentro un altro sguardo per poi capire che non vuoi nient'altro. Gridarsi in faccia fuori da un club, solo la pioggia ci abbraccerà. Ma nonostante tutto tu non sei ancora scappata, nonostante il casino che ho lasciato in quella casa, quelle volte che mi hai visto in ogni modo, anche steso a terra per strada. Tu sei l'unica folle che ancora mi ama.